9 in punto, la versione di Oscar. Long to reign over us, God save the queen. Obbligato, e per chi se lo ricorda, ovviamente io ero pure a quel concerto Wembley degli U2. Questa era, diciamo così, la versione un po' schitarrata degli U2 di God Save the Queen. Perché Dio salvi la regina? Perché essendo oggi lunedì dell'angelo, dopo la vostra buffata, però non per tutti, Pasquale, e un altro giorno di festa che vi attende, andateci piano. Noi qui in diretta abbiamo pensato che dovevamo per forza tentare di trattare un tema un pochino più leggero di quelli che solitamente Oscar Genio vi ammannisce di politica economica italiana, internazionale, tasse, tasse, tasse. Speriamo che per Pasqua Gesù, nella sua trasfigurazione, dopo la risurrezione, ci regali uno Stato meno ladro. Questa, come sempre, resta la mia grande ambizione. Ma il tema che trattiamo invece oggi è un po' più leggero, ma fino a un certo punto, perché abbiamo deciso e dedicare anche noi la nostra ora all'evento leggero, mondano, della settimana mondiale, che è sicuramente quello delle nozze regali britanniche, per cui il principe William convola con Kate Middleton. E ci siamo posti però il problema non tanto di approfondire il gossip, chi ci sarà, chi non ci sarà, anche perché ormai sui quotidiani leggete tutto già da molte settimane, quanto un problema diciamo così comparativo, che ci ha un po' colpito nei dibattiti in redazione. Come mai, ci chiediamo, c'è corona e corona, questo è il titolo un pochino leggero che abbiamo dato alla nostra trasmissione, cioè come mai, leggendo il dibattito britannico, si capisce che entrare a far parte della dinastia dei Windsor è ancora un simbolo di compostezza, di misura, ma comunque un simbolo positivo, che si dica, e al netto di tutto quello che è successo, delle infelicità provocate a chiunque ci abbia provato, come Lady Diana, Sarah Ferguson, insomma una famiglia rocciosa, un principe consorte come Filippo, durissimo, tosto e dalla lingua tagliente, la maledizione di diventare re quando non si può, regina, quando poi a quel punto si può fare ben poco. Ma comunque, detto tutto questo, è ancora considerato una cosa positiva, un approdo positivo, tanto che una famiglia di middlemen, di borghesia anche bassa più che media come quella dei Middleton, ha investito un'intera vita, per così dire, di risparmi perché la figlia potesse agganciare il principe, e la figlia ci è riuscita. Perché da noi invece i miti positivi, i personaggi che dominano nelle graduatorie di popolarità del costume italiano, quindi senza parlare della politica, perché la corona non è politica in Gran Bretagna, è un simbolo di unità, è un simbolo nazionale, perché da noi invece i simboli del costume, i protagonisti e i soggetti più vocati della popolarità e del gossip sono di tutt'altro tipo? A mia opinione, magari sbaglio, sentiremo i nostri ospiti, non certo simboli di misura, compostezza, se volete lo dico anche con tutta l'ipocrisia del caso, potreste dirmi, alcuni di voi che telefoneranno all'800240024 potrebbero dirmi, meglio la sincera e anche un po' turpe, a volte un po' trash, sincerità degli italiani che preferiscono che non ci sia quel velo di ipocrisia dietro il quale forse si custodisce nei secoli un simbolo di unità, compostezza, misura, quale non è poi alla prova dei fatti una dinastia e una corona, e tutto sommato forse meglio gli italiani. Ma ne siete davvero così convinti? Io non troppo, a dire la verità, sia pur non essendo un esperto di gossip, sia pur non essendo un esperto di come si costruisce e si misura la popolarità nel costume nazionale di personaggi emergenti e discendenti. La mia impressione è che, come sempre, si abbia a che fare con un tratto fondamentale della storia dei paesi. I paesi che hanno storia unitaria lunga, hanno simboli unificanti, hanno anche nella corona, anche nei reali, io sono repubblicano, ve l'ho sempre detto, una grande, potente motore di unità, inevitabilmente nel passaggio dei tempi e nel cambio di come si fanno le cerimonie, di chi sono gli invitati, con Elton John un tempo, ma un altro all'epoca c'era Handel, nel 1740, mica tanto diverso rispetto agli effetti che produceva, comunque quei simboli di unità restano perché hanno fatto il paese. Noi che siamo arrivati tardi e male all'unità, non ce l'abbiamo ancora introiettata nel nostro DNA, e che tutto sommato abbiamo miti unificanti dalla politica, ne abbiamo avuto più miti sfascianti che miti unificanti, tranne rare eccezioni, e beh, inevitabilmente forse anche per questo abbiamo personaggi che godono del successo popolare molto molto molto diversi da quelli di una casa reale. Fine del mio breve pistolotto, perché molto più e meglio di me diranno gli ospiti della nostra trasmissione. Cominciamo con due devo dire miei piccoli miti personali. So che a casa non vi interessa molto in questo lunedì di Pasqua chi sono i miti personali di Oscar Giannino, però questi due lo sono, e mai avrei creduto, vi dirò la verità, di averli in diretta il lunedì dell'Angelo a quest'ora, gratis et amore dei, e quindi io penso che li dovrete molto ringraziare, oltre che molto ben ascoltare. Sono innanzitutto un personaggio che è una soubrette della parola, perché io lo considero dalla musica alla misura, dal costume alla sobrietà, una specie di lama lucente per quello che dice, almeno io la vedo così, ed è lucente non solo per le sue mise, che è Platinette, che io ringrazio e gli do la buona giornata. Grazie. Buona giornata a lei, grazie, buona giornata agli ascoltatori, grazie soprattutto per la sobrietà, è una parola che lo sentivo abbinata a me da qualche decennio. E va bene, io la uso invece, questa è la mia opinione. Perché il problema... Evidentemente lei ha il gusto dell'orrido, dell'eccesso, non lo so, va bene, sono affari suoi. Io penso che che ciò che mi interessa è la parola, non come si cosa. Quindi la parola è sobria, la parola è sobria rispetto a quelle che vogliono. E poi abbiamo con noi il direttore di una testata che è nata ed è cresciuta nel sospetto più che col rispetto iniziale dei settimanali tradizionali, perché sembrava una cosa più gossipare e leggera di quanto non fosse, sino che è proprio poi il settimanale che ha dato molti colpi a quelli tradizionali giornalistici un po' polposi e pomposi, e quindi abbiamo il direttore con noi di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi e grazie per l'accostamento, sono onorato di essere qui. Allora, devo dire, questa cosa della sobrietà è una cosa che condivido. Ecco, io sono per la sobrietà della parola, perché nel nostro paese, nel suo dibattito pubblico, è la parola sobria che salva dagli eccessi. Per quello che mi riguarda, mi vesto e mi presento anch'io talvolta, ma la sobrietà della parola è la misura della civiltà. Allora, Platinette, lei che cosa pensa del perché siano o non siano miti quelli della Casa Reale Britannica e del perché i nostri miti siano diversi? Siamo meglio noi o meglio loro? Sono due telenovela totalmente differenti. Lei nell'introduzione, citando la corona, mi ha fatto prendere un sobbalzo mattutino con conseguenti devastanti effetti gastrointestinali, perché dicendo corona pensavo dicesse Fabrizio Corona, che notoriamente è un invitato al matrimonio, non so se dalla Casa Reale, non credo, o da un valletto probabilmente, di quelli che tradivano Diana ai tempi, ma Corona c'è, e quindi insieme a lui c'è anche quell'esempio che lei definiva prima negativo di come si può diventare popolare in Italia. Le telenovelas italiane non sono così appassionanti, perché noi non abbiamo una casa reale degna di questo nome, non l'abbiamo avuta nemmeno prima, né francamente ci avrebbe un granché interessato. Il matrimonio tra Emanuele Filiberto e l'attrice francese, notoriamente di sinistra, come la signora Claudette, adesso non ricordo esattamente il suo nome, chiedo scusa, ma questi sono i devastanti effetti della corona attuale, che è ancora in giro, ancora vola, poveretta. Non ebbero lo stesso impatto su di noi. Loro invece hanno, e peraltro i matrimoni regali, grazie a Dio, sono rari in questo senso, delle occasioni meravigliose di mettere in scena tutta la loro, definiamola, sobrietà di una società che si guarda ai reali, come dice lei, come un simbolo di unità, ma riguarda anche come protagonisti di questa infinita telenovela fatta da personaggi che hanno delle caratteristiche che nemmeno i migliori autori riuscirebbero a disegnare se dovessero fare davvero una serie televisiva. Sul fatto che la Middleton sia un esempio positivo ho molti dubbi. E perché? Come ha detto lei, invece, mi sembra istruita per l'occasione, ben preparata al ruolo che svolge, che svolgerà, una vera arrampicatrice dal punto di vista sia sociale che di immagine. Non so se ha notato, non credo, perché mi rendo conto del dettaglio totalmente ininfluente. In tutti i servizi in cui la si vede stringere mani a qualcuno, come fanno solitamente i membri della famiglia reale, insomma, o comunque i nobili, e ha un sorriso per tutti, come se la persona che ha davanti, le dicesse la migliore delle battute possibili. Lei è sempre tanto carina e sorride sempre, però ha ridotto quel poveraccio nel giro di un anno da un bel ragazzo con addosso la fisionomica di una madre irripetibile in una specie di marito sposato da 6 a 7 anni, già bolso, già gonfio, già calvo, già con un carrello della perdoni Platinette, la sta descrivendo come una personalità dotata di una forza strepitosa, perché se la sì, già ridotto, è una vedova nera, lei è un amantide sicuramente, è una specie di... come vede come ha la bellezza di quei due bambini, di quei due ragazzi, quando seguivano il feretro della madre in un'occasione così tremenda, era talmente evidente e luminosa come il sorriso della madre stessa, che di fronte a questa ragazza ordinaria, un ragazzo che era un esempio di bellezza, ma quella bellezza che ha dei gusti personali di natura sessuale, era talmente evidente e forte che vederlo nel giro di un anno, poco più, ridotto come ridotto ora, è vero che la vecchiaia arriva per tutti, ma insomma non con questa velocità. Io ho il terrore che questa nel giro di pochi anni lo riduca a un casalingo detrito senza nessuna possibilità. E vabbè, ma col tempo ci saranno le nuove responsabilità che sicuramente non toccheranno al padre Carlo. Ma chi se ne frega delle responsabilità? Già una casa reale piena di mostri, ne vogliamo aggiungere un altro, non certo il figlio di Lady Diana, per favore, non tocchiamo e non paragoniamo come si sta facendo in questo periodo questo le due d'accordo. Donne. No, questo sono d'accordo, questa è un'improprietà. Una vera rivoluzionaria del costume, l'altra poveretta, una che ce l'ha fatta e ce l'ha provata, che dalla cassa del supermercato ora è proprietaria dell'intero mall, ma è molto differente insomma. E chi lo sa che non ci riservi però alla fine, avendo un passo, una tenuta forse più solida, qualche sorpresa, mentre all'altra l'hanno fatta a pezzi, quindi questa potrebbe essere più tosta di quello che Windsor si aspetta, non è, non penso? Io penso che questa potrebbe fare a pezzi qualcuno, nel senso che l'atteggiamento è tipico di una signora che a tardi diventerà tra poco, che non credo si fermerà di fronte a nulla. L'altra è stata fatta a pezzi, ma ha fatto a pezzi delle convenzioni a sua volta che sembravano davvero indistruttibili. Io guardi, ho sempre pensato, nella mia stupida ingenuità di amante di fantasie di questo genere, che se Lady Di avesse mai avuto quel figlio da Dodi al-Fayed, come sembrava potesse essere, adesso non dico che non avremmo avuto il dramma delle due torri, perché mi rendo conto che siamo di fronte a un pensiero che è vicino all'internamento in casa di cura per malati mentali, ma un figlio che nasca da una parte dalla corona inglese e dall'altra dal mondo musulmano come Dodi al-Fayed, forse avrebbe, non dico per un attimo sedato, ma messo insieme due mondi differenti, due stili di vita, l'Occidente e l'altra parte del mondo che non ne vuole sapere di come vive l'altra, il rovescio della medaglia, al tempo stesso sarebbero stati per un attimo uniti da una nascita. E questo che avrei sempre sperato che accadesse, purtroppo non è accaduto. Non credo che questo ruolo potrebbe mai svolgerlo, qualunque sia poi finale della vicenda, questa signorina Middleton, che già nel nome ha una sua ragione d'essere. Sì, e però a me questo fatto della Meditas, della borghesia britannica che operosamente, qui stiamo parlando di due che lavoravano, uno faceva all'aeroporto, l'altro faceva la hostess, e che poi si mettono la loro aziendina, si mettono a lavorare, è una cosa un po' brianzola, mi rendo conto, tanto che poi sgomitando la figlia la portano lì, però a me questa cosa in definitiva non mi sembra un cattivo segno, anche se ha il segno dell'ipocrisia, del tutto quello che si vuole, però tutto sommato è meglio l'Italia? È meglio, è un'altra cosa, questa signorina non ha fatto il bunga bunga o similari, ha puntato molto più in alto, ecco. Quindi cosa è meglio, poverino, averci un monolocale in via dell'Oggettina o avere Westminster come sede, come teatro del matrimonio e poi tutti i palazzi, le case, andare a caccia tutte le settimane? No, guardi, capisco che la media borghesia sia la spina dorsale dell'Inghilterra. Ecco, rimanga tale e non si butti nel gioco delle figurine della Casa Reale. Oh, quindi Platinet ha un'opinione chiara. Quella di Luca Dini, dal punto di vista del suo angolo, della sua tribuna di osservazione, è troppa ipocrisia e tutto sommato non ci autoflagelliamo troppo, sia pure con le nostre perdite efferate di sangue, che sono testimoniate anche dalla tipologia di chi diventa popolare nelle graduatorie del gossip e del costume nazionale. Che pensa il direttore Dini? Ma io, a me devo dire che Kate Middleton piace molto. Per me la vedo quasi come un personaggio alla Jane Austen. È una che ha avuto pazienza, ha saputo aspettare, però è molto consapevole. Si avvicina a questo matrimonio con una consapevolezza che Diana non aveva assolutamente. E in un certo senso è il prodotto di Diana. Senza Diana non ci sarebbe potuta essere Kate Middleton. Diana era arrivata, cioè, viste tutte le fallacce di quel prodotto che è fallito per la sua insicurezza, dicendo: non avrete ragione di ogni mio angolo di insicurezza, vi impedirò di entrarci e vi farò vedere questo. Sì, assolutamente. Lei è una che è stata in questo molto protetta da William, nel senso che lui aveva ben chiaro la lunga attesa di questo matrimonio è stata dovuta in gran parte a questo. William non voleva, aveva il terrore che questa ragazza si avviasse all'autodistruzione come sua madre, che lui aveva vissuto in diretta e con moltissimo dolore. E Kate Middleton è una che arriva preparata, forte, anche della sua medietà. Io non voglio dire che sia... cioè, sono meglio gli inglesi, siamo meglio noi. Non è questo il punto. Forse gli inglesi scelgono meglio i modelli. Io penso che l'Italia sia piena di Kate Middleton, di persone che alla scorciatoia preferiscono un lavoro lento, una costruzione. Solo che non diventano i modelli, non sono quelli additati come al centro dell'attenzione. È un po' quasi scontato che chi china la testa, fatica con l'olio di gomito, non diventi troppo simbolo di una cosa positiva, se non, voglio dire, su vecchie rubriche polverose, ma il più dell'attenzione, i giovani che vogliono emergere, beh, il fuoco lo vedono da tutt'altra parte, in tutt'altro tipo di personaggi. Anche perché noi non abbiamo obiettivi così sfarzosi, purtroppo, o per fortuna, non c'è un obiettivo grosso come quello di sposare il principe, forse per fortuna. Però credo che dipenda molto da noi, insomma, di noi dai media. Io non credo fondamentalmente che l'italiano medio pensi veramente che la ragazza dell'Oggettina sia un mito. È sicuramente un personaggio da romanzo, ma che sia un mito, un esempio da imitare per la maggior parte della popolazione, io dubito fortissimamente. Platinet, posso fare una domanda? Ma non è che per caso noi siamo rimasti un po' fermi, dico come Italia, fermi agli anni Ottanta, quando anche tutto sommato Gran Bretagna poi era alla testa di questa roba? Non è un caso che Victoria Beckham, l'ex Posh, eccetera eccetera, non è che noi siamo rimasti un po' indietro? Siamo come al solito in debito di storia e magari tra vent'anni diventiamo un pochino più ipocriti, mentre tutta questa epoca Berlusconi, 17 anni, ci ha eternato in una specie di anni Ottanta che non sono ancora finiti. Lei che pensa, Platinet? Guardi, forse per me, se non finissero mai, sarebbe anche meglio, nel senso che ho il piacere almeno di dividere con un presidente del Consiglio che forse involontariamente, ma durante questa vicenda apparentemente così piena di sesso, così svagata, questi lunedì sera, con il peccato che arde, le ballerine sui cubi nella taverna di Arte, dove i demoni accendevano le passioni. Beh, quando un presidente del Consiglio dice non discutete il mio stile di vita, discutete il mio operato, è come se legittimasse me ad averne uno di mio stile di vita e di poterlo alla pari del suo praticare senza i commenti altrui. Se questi sono gli anni Ottanta, bene, che restino tali, all'insegna della libertà personale e all'insegna, in questo caso, del poter fare una vita decente, almeno soddisfacente da un punto di vista. Perché se c'è una caratteristica che si differenzia dagli inglesi, è adesso non vorrei buttarla su, insomma, in cazzara, ma è l'allegria, quella specie di faccia di legno che hanno gli inglesi in genere, con il rispetto per chi è più spiritoso, al massimo una battuta alla Mr. Bean, infatti, che è una roba che testimonia bene la diversità dell'umorismo rispetto al nostro. E non dimentichiamoci che per arrivare all'umorismo invece un pochino più, diciamo, privo di ipocrisia e legnosità, devono bere tanta di quella birra che poi gli effetti si vedono. Ora, siccome io pare, ma io non ci posso credere, ma io veramente ho detto che erano gli U2, ma questo è un meccanismo di transfert, perché è ovvio che erano i Queen e a Wembley eravamo lì per Freddie Mercury. Detto questo, per farmi perdonare da chi giustamente mi dice: ma quanta colomba hai mangiato anche tu? No, io la colomba non l'ho mangiata e ahimè non mi piace, a differenza di Platinette. Però siccome qui stiamo toccando l'ipocrisia, ma dobbiamo anche ricordarci che quello è un grande paese che ci ha insegnato la libertà, e allora finiamo questa prima parte con una cosa altrettanto storica che ricorda, eterna, e fa scandire le gole per ricordare la libertà che quel paese ci ha insegnato. In studio, era il minimo che potessi fare, se ho davvero, non capisco per quale ebbrezza, sbagliata l'attribuzione, no, ahimè, io stavo lì a Wembley per Freddie Mercury, erano bei tempi, ero un pochino meno vecchio, ma comunque questa è una delle versioni più storiche, per così dire, delle trasposizioni rock di God Save the Queen. Poi c'è un'altra che all'epoca ci esaltava anche, dei Sex Pistols, non so quanti di voi se li possono ricordare, però un pochino più polemica, perché cantava God Save the Queen and the Fascist Regime, però insomma vabbè. Detto questo, allora ci stiamo ponendo il problema del come mai la corona britannica sia ancora un simbolo di, per quanto ipocrita, ma di misura, di compostezza nazionale, eccetera, eccetera, e da noi invece coloro che dominano nella graduatoria della popolarità del costume nazionale, diciamo, solo misure, sono persone impostate a diverso costume, ecco, di minor sobrietà, forse meno ipocrisia. Abbiamo visto che Patinetti ha detto sì, però meno ipocrisia, meglio. Non lo so, c'è da interrogarsi su tutto questo. Vediamo con quali ospiti in questa seconda parte della trasmissione ci poniamo lo stesso interrogativo comparato di cosa vuol dire il matrimonio di questa settimana di Casa Windsor rispetto ai simboli della popolarità, ai personaggi della popolarità italiana nel costume. Sono con noi Camila Rasnovic, conduttrice televisiva. Buongiorno Camila. Buongiorno a tutti. E Barbara Alberti, che è una scrittrice e che da qualche tempo a questa parte è diventata una voce di successo anche di Radio 24. Buongiorno a Barbara Alberti. Buongiorno, è una gioia inaspettata che mi abbia invitata. Ma come una gioia inaspettata? Adesso qui il mondo si ribalta. No, i miei miti siete voi, no? Io non sono niente e nessuno, e anche Camila Rasnovic da molti anni mi ha come al solito stupito. Io voglio dirlo perché questa è la trasmissione qui, siccome conduco, presento il mio ospite, dice: Camila Rasnovic è il classico esempio per me, ce ne sono due, lei è una delle due, di persone che all'inizio, quando io mi ci sono avvicinato, perché mi piaceva molto la musica e quindi avevo bisogno di guide musicali nella trasmissione e così via, e poi nella vita mi hanno completamente stupito, perché per me che studio musica e vengo da altri percorsi musicali, ho capito che fare la guida ai percorsi musicali per l'universo dei giovani in trasformazione, perché poi io sono diventato vecchio, lei no, e era una cosa che le era possibile perché aveva alcune chiavi di vita, alcuni valori, alcune convinzioni che alla fine si sono viste sempre di più, ma c'erano anche all'inizio. E attenzione, perché chi fa spesso lo smistatore di musica è molto meno sprovvisto di valori e di opinioni più o meno taglienti, dalla politica al costume, di quanto non capiti. Insomma, Grazie mille. Punto. Questa è la mia maniera di presentare. Io vi faccio ascoltare prima due telefonate ai nostri ascoltatori, poi entriamo subito a dire se per voi poi, come ha detto Platinette, no, la ragazza Middleton, ma che, ma quale mito, ma quale cosa positiva. Io sono un po' meno d'accordo di lui, ma comunque sentiamo che pensano i nostri ascoltatori. Cominciamo con Luigi, che è caduto giù dal letto questa mattina per dirci da Verona che cosa. Buongiorno a tutti. Salve, no, volevo intervenire sulla questione che avete sollevato all'inizio, che dicevate appunto che la corona inglese funge da simbolo di unità per il paese. Noi ci chiediamo, la corona inglese e Fabrizio Corona in Italia, insomma, ecco. Esatto, Fabrizio Corona in Italia. No, beh, alla fine comunque non è esattamente così, nel senso che anche all'interno dell'Inghilterra cioè, sono profondamente divisi, anche al di là della questione monarchia o non monarchia, anche sulla questione di sentirsi realmente inglesi. E, sì, d'accordo, e però alla fine il matrimonio reale è una cosa che piglia tutto e vedrà se non arriviamo al 1,5 miliardi. Unisce anche noi forse il matrimonio inglese, più nel gossip che nell'identità. Comunque anche un'altra cosa che avete detto, che è molto, molto saggia a mio avviso, che avete detto che anche in Italia è pieno di Kate Middleton fondamentalmente, Ma che non sono miti, questa è la differenza. Ed effettivamente è vero, nel senso che un'occasione di sposare un principe e quindi di mettersi in luce come modello di persona, di valori, eccetera, in Italia forse non c'è, e sono sicuro che le donne, se possiamo chiamarla anche così, insomma, dell'Olgettina, le famose ragazze di Berlusconi, di certo non sono prese come modello, anche se forse i media vogliono farlo passare come tale. Ma questo io non lo so, io penso che ci siamo appena battuti da questi microfoni per le quote rosa nei consigli di amministrazione delle società quotate. Adesso dirò una cosa che farà inorridire tutte le mie amiche manager per la cui carriera, per il cui riconoscimento di carriera, la carriera l'hanno già fatto. Io mi sono battuto anche contro Confindustria perché quella legge avesse un'applicazione che, come si vede nei primi liste di amministrazione, non c'è. Allora io dico una cosa che le farà sobbalzare innanzitutto a loro, alle amministratrici, professioniste, manager. La mia opinione è che le Kate Middleton, le famiglie Middleton, sono un po' come le donne amministratrici, manager, professoresse universitarie che non riusciamo a mettere nei consigli d'amministrazione delle società quotate. Adesso loro mi manderanno insulti, diranno ma come osi ravvicinarci a una ragazzina che ha frequentato un college solo per beccare il principe e che tutto sommato nella vita non ha fatto nient'altro e adesso si siede sul trono. Si siederà sul trono quando naturalmente la regina, che andrà avanti fino a 102 anni secondo me come la sua regina madre. Però detto tutto sommato, il problema è la tenacia di questa ragazza e della sua famiglia, l'obiettivo, un obiettivo perseguito senza slabrarsi per strada, senza tributare alcuna dovuto, improprio, canonico offerta all'altare di una cosa smandrappata come sono quelle della cronaca italiana. Allora, adesso mi offro in pasto alle due ospiti che naturalmente diranno che non ho capito un piffero. Camilla, come la pensi? No, io devo dire che sono stranamente d'accordo, nel senso che essendo donna, avendo lottato sempre per i diritti delle donne, sono abbastanza, in generale anche per ricollegarmi alle quote rose di cui si parlava prima, sono abbastanza contraria, ma semplicemente perché, non per una retrovisione della vita, ma per una forse per una vista un po' avanguardistica, cioè nel senso che secondo me non dovrebbero neanche proprio esserci, non dovrebbe porsi il problema. Io come donna mi sento offesa a pensare, poi so perfettamente che sto lanciando una provocazione perché altrimenti non ci sarà mai la verità. Sono una donna che ha lottato e lotto da 15 anni per fare il mestiere che faccio, senza amanti potenti, perché amanti ne ho avuti ovviamente, senza appoggi politici e senza darla via, per dirla in francese. Quindi detto questo, però mi offende il fatto che c'è una nicchia riservata a me in quanto poverina donna. Ne abbiamo parlato a lungo, però la mia convinzione, che ero contrario, è che se non diamo un colpo di accetta che dura pochi anni, a tempo, fin dall'inizio, qui è inutile perché tanto i maschi non cederanno mai il potere in Italia, mai. E dall'altro so che in questa società c'è bisogno di un rimedio tanto estremo, perché altrimenti la ingiustizia continua a perpetuarsi, per cui per carità, bene, dopodiché mi fa orrore, ecco, perché certo. Offende. Ma Kate Middleton è un simbolo di questo anche o no, con la sua famiglia, con questa tenacia di avere l'obiettivo e portarlo a casa? Io devo dire che lei non mi offende, non mi urta, trovo che molte donne abbiano l'obiettivo, dagli Emirati Arabi, famiglie molto benestanti, a famiglie molto povere in India dove c'è il matrimonio matrimonio ovviamente insomma deciso dai genitori, all'Italia semplicemente forse con una mira un po' più bassa, per cui perché criticare una donna che ha avuto un obiettivo e che ce le hanno il 90% comunque anche delle mie amiche milanesi ce l'hanno, certo non hanno il privilegio di poter puntare a un principe, però puntano all'industriale, però puntano al manager, però puntano all'imprenditore del nord, oh, con l'azienda. Viva, cioè, viva la sincerità nell'ammetterlo. Ma questo è vero, soprattutto in alcuni ambienti, è la verità. Dopodiché, ripeto, secondo me semplicemente in Italia quello che dovrebbe farci specie è un po' il fatto che in realtà la mira si sia abbassata, cioè lei ha puntato al principe, qua si punta all'imprenditoretto con la macchinetta, con la larga, con, cioè andiamo in Costa Smeralda, in Formentera. Attento, però, attento Camilla, che mi tocca difendere l'imprenditore brianzolo, sì, che non è la, non è solo siamo la caricatura. Siamo tutti contentissimi dei piccoli imprenditori, quello che sto parlando ovviamente la mia, di nuovo, è una provocazione invece per far riflettere e pensare su, mi sembra che ci sia un po' l'effetto rosicone, cioè ecco. Perché criticare una ragazza che, brava, come giustamente dicevi tu, comunque non ha ucciso nessuno, non ha fatto dei crimini, non è stata oggetto di volgarità diffuse dai media, si sta sposando un principe e non è una nobildonna, e quindi, cioè, mi sembra che ci sia più che altro la storia del rosiconi che ascoltano la favola impensabile che invece si realizza, e quindi bisogna criticarla a tutti i costi. Ma sarà meglio una ragazza che comunque l'università l'ha frequentata, che comunque non mi sembra abbia dato adito a infangare il suo nome o quello della sua famiglia, piuttosto che l'esempio di femmina e di sessualità e di sentimentalismo, se così si può chiamare, che abbiamo noi in Italia? Io sono completamente d'accordo con Camilla. L'unica cosa è che naturalmente le sue amiche milanesi hanno altri obiettivi, e infatti l'ho sperimentato ai miei danni. Io non sono mai stato un obiettivo per ragazze intelligenti e svegli nel nostro paese, e questo mi ha sempre fatto pensare era meglio nascere figlio di un imprenditore che in un quartiere operaio. Detto questo, Camilla, però io sposo tutto quello che ha detto, non posso sposare lei, ma tutto quello che ha detto. Barbara Alberti, sentiamo invece dal suo punto di vista se Kate Middleton merita gli strali un po' di Platinette, oppure siamo meglio noi con i nostri simboli un pochino diversi ma meno ipocriti, ci diceva lui. Tu che pensi? Ma non lo so, io credo che mirare a un principe o mirare a un imprenditore brianzolo sia per la stessa cosa. Se una donna decide di far carriera attraverso un maschio e non si concede un'avventura più esaltante. Rispetto alle differenze, però, io credo che non ci sia poi questa grande differenza. Perché, cioè, noi abbiamo il primato dell'ultracapo, no? Come dice D'Agostino, col regno berlusconiano, no? Abbiamo questo primato, poi questo sesso, caro Platinette, ti adoro, ma a me non pare che quello di Arcore sia sesso, mi pare che sia una terribile caricatura, questi vecchioni che pagano, sfigatissimi perché nessuno che gli dà neanche un bacio, neanche un sorriso gratis. A me sembra qualcosa di molto mortuario. Però alla fin fine, e mi sembra anche, come queste grandi note sono cose fatte per il popolo, dice, ma perché non le fa di nascosto? Ma perché se no che lo fa a fare? È per farsi invidiare, per farsi ammirare, per farsi. E tra l'altro, però, a me sembra che anche questa monarchia, cioè noi abbiamo il primato, però anche gli inglesi non è che scherzano. Vi ricorderete le famose intercettazioni? Quelle tampax, no, perché poi intenerivano perché erano questi due vecchi gentiluomini, no? Oddio, quella di Carlo non so se intenerissero, perché io se fosse stata una donna, no, un cretino di quelle proporzioni, senso, oddio mio, adesso rischiamo un incidente diplomatico. No, perché sono gli ultimi, c'era una, era qualcosa di straordinario, sono veramente, come detto prima l'altro ospite, sono personaggi da commedia, nel senso, lui che ha questo delfinone, no, destinato a invecchiare con una madre immortale, no, che non sarà mai re, che ha questa bellissima moglie ed è pazzo della più brutta del reame. Perché appunto gli stessi gusti, il sigaro, la caccia, gli scacchi, e comunque loro sono già, voglio dire, sono un po' come i nostri, sono delle parodie, c'è già, avete visto su YouTube, c'è una parodia esilarante, fatta esilarante, da Dio, sì, dove loro arrivano come musical, esatto, sono di una rassomiglianza impressionante con l'arcivescovo di Canterbury, questo santo vecchione che balla scatenato. Robin Williams, certo. E però non sono molto diversi, perché comunque l'arcivescovo di Canterbury rilascia delle interviste come una star. Sì. Secondo me la monarchia, come siamo screditati noi, ma lo è anche la monarchia inglese, c'è stata questa grande rivoluzione di Diana, Io non so se fosse una cima, ma ha fatto qualcosa di straordinario. Sì. Ha opposto per la prima volta nella storia e ha sfidato il potere della corona contrapponendo il potere dei media. È diventata una santa, più importante della regina, e ha reso i Windsor oltremodo popolari. È vero che è stato fatto a pezzi, ma ha vinto. E infatti il guaio della povera Kate e del figliolo è che sono... sono figli d'arte di Totò, lo so, però la mia opinione, smalderò, è che sia il figlio di Diana, di cui abbiamo sentito un giudizio appunto molto duro di Platinette, sia lei, Kate Middleton, siccome sono figli del fatto che l'eccesso della rivoluzione Diana provoca un collasso che poi conferma in realtà una specie di ritorno indietro, come è stato quello dello stile di Carlo con Camilla Parker Bowles e di questi ultimi anni della regina Elisabetta. Però siccome sono figli di questo, io sono convinto che ci faranno vedere con decisioni e stili concreti come entrambi siano figli di una rivoluzione incompiuta, ma che inevitabilmente andrà avanti. Cioè la corona britannica non è mai stata una cosa morta, mai. C'è stato chi l'ha fatto collassare per eccesso, come quando un re ha scelto una pluridivorziata americana ninfomane e dichiarata tale, però in effetti la corona britannica non è semplicemente una cosa oleografica come quella dei paesi scandinavi, è un pezzo, una parte ineliminabile di uno dei più grandi paesi datori di libertà al mondo. Di contraddizione, di ipocrisia, anche di sangue, di scandali, certo, ma però con una grandezza che tutto sommato quegli italiani quasi mai hanno. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi ci raggiunge un'altra ospite che ha scritto un libro su questo, e con le due ospiti chiudiamo con una riflessione finale. Ed eccoci tornati in studio, abbiamo anche ascoltatrici, perché io dicevo ma com'è possibile, non ci telefono ascoltatrici. Va bene che oggi è una giornata di festa, quindi il numero di telefonate diminuisce, però ne abbiamo, sentiamole rapidamente. Innanzitutto Elena, che ci chiama dalla provincia di Salerno. Prego Elena. Buongiorno. E volevo proporre all'attenzione il fatto che secondo me noi almeno una Kate Middleton, una icona borghese assurta all'Olimpo, portatrice di tutti questi valori sani eccetera eccetera, medi, sì, sicuramente ce l'abbiamo. Ah, e secondo me è la signora Toffanin. Interessante, io non la trascurerei assolutamente. Interessante. Questo suo ruolo di Penelope che tutti i pomeriggi sta lì e se la tela attorniata da una corte di cui fa parte pure una figura un po'... La compagna di Pier Sirio, lei dice la Kate Middleton italiana. Sì, che racchiude anche perché misura tutto senza mai esagerare. No, un elemento di venismo iniziale, però, insomma, per così dire, sì, ma però... Ma è quello, la catarsi. Questa è interessante, questa osservazione. La catarsi è lì. E poi vorrei dire un'altra cosa, se possibile, che dicevate siamo rimasti agli anni Ottanta. Secondo me in Italia, purtroppo, per la poca mobilità sociale, per il tipo, diciamo, di... noi siamo agli inizi del Novecento. Adesso Elena, no, i dati le danno torto. Capisco cosa vuol dire, ma non siamo agli inizi del Novecento. Ricordi che nei soli 15 anni successivi al secondo conflitto mondiale, in quei soli 15 anni, 45-60, gli italiani hanno fatto di reddito disponibile più 550%. Grazie, quindi, dire questo che intendo dire. No, ma ho capito il freno sulla mobilità sociale, l'ho capito, però non siamo all'inizio del Novecento, questo non possiamo dirlo. Daniela, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Prego Daniela. Buongiorno Gellini, la sto seguendo con attenzione e con interesse. Allora, senta, io praticamente vedo in questa una grande opera di modernizzazione nella monarchia britannica, sì. È un'opera anche furbetta, riescono a prendere due piccioni con una fava, nel senso che la ragazza, come dire, è del middle class, moderna, una ragazza che ha studiato, una ragazza carina, eccetera così, e che può svecchiare, diciamo, un certo protocollo rigido della monarchia. Dall'altra parte fanno un bel affare anche da un punto di vista, lei che è un economista anche, o comunque si interessa di economia, fanno anche un bel affare, no? Proiettano l'immagine della Rai Unita in tutto il mondo, vede, no? Vede che lei sta toccando un punto nuovo qui, e naturalmente il caso, l'amore, quello che vuole, ma c'è una strategia, la strategia di rinnovo della comunicazione senza gli eccessi di Diana, ma la strada è quella. Questo significa fare della monarchia, della corona, qualche cosa che resta al passo con i tempi. Io proprio questo volevo dire, mi fa piacere che anche dal punto di vista di Daniela una donna abbia notato questo. Abbiamo con noi Luisa Ciuni, che è giornalista del Giorno e una scrittrice, insieme a Elena Mora ha scritto Kate William, La storia segreta, che a dire la verità è un libro che io credo andrà forte, perché in redazione da noi se lo sono disputate praticamente tutte le colleghe, come se si trattasse del Pane Quotidiano. Di lì ho capito che le colleghe giornaliste, pochi cavoli, Kate Middleton la invidiano, molte di loro, senza generalizzare. Luisa Ciuni, questo matrimonio avrà questa funzione, ci riuscirà, da quello che avete visto studiando le carte per scrivere il libro? Cioè, i due non sono dei traditori delle tradizioni di cui vengono, ma sono degli innovatori, sia pure con una misura solo iniziale, ci stupiranno oppure no? Qual è la sua impressione? Ma intanto buongiorno e buona Pasqua. Dunque, io credo che i due siano due ragazzi capitati in un matrimonio pop postmoderno più grande di loro. E mi vado a spiegare. La ragazza ha tutto quello che serve, compreso una faccia carina, un fisico molto bello, lui è figlio della mitica Diana. Lei è una commoner. Non c'era altro da fare, il ragazzo dovevano maritarlo a tutti i costi, la corona è affidata a lui in linea retta, in quanto Carlo chiaramente per età e per la moglie che si è scelto non può avere altri figli, e sul principe Harry ci sono i problemi che ci sono, e quindi il matrimonio s'aveva da fare. William ha seguito le istanze di sua madre, il grande memorial fatto per celebrarla, niente messa funebre, però un grande concerto. Lei ci sta, interviene questa necessità scenografica, la commoner non piace al 100% alla regina, come abbiamo potuto vedere, non l'ha ancora ricevuta. Ha appena ricevuto padre e madre, giusto perché, insomma, nelle migliori famiglie i genitori non si possono nascondere, però sicuramente serve a dare questo grande colpo di scena e serve anche a un secondo elemento, a dare un secondo erede alla corona. Sposasse chi vuole William, tutto tranne che andare verso una seconda guerra dei Windsor. Esatto. Vorrei dire anche una cosa, io una lancetta a favore di questa ragazza la spezzerei. Ora non lo so se diventerà pestifera o sarà una santa o magari resta una persona normale. Quello che so è sicuramente che le arriverà addosso, un peso disumano. Perché non sottovalutate Filippo di Mountbatten, il principe consorte, che è capace di atterrare, per quanto novantenne ha la forza abbattitrice di un bulldozer. Sì, ecco, questo bulldozer. E inoltre, se una vuole proprio fare la bella vita e darsi ai viaggi, beh, quello non è il posto giusto. No, c'è certo non di meglio. Non è il posto giusto, è un peso notevole. La regina regna ma non governa, è molto anziana e ha scaricato tre quarti dei problemi che ha sul figlio Carlo, tranne chiaramente quelli politici, perché Carlo non può intervenire. La povera duchessa racchia, sì, lui ha sposato la più brutta del reame, è stata buttata in battaglia a un'età a 60 anni in cui la gente in genere va in pensione a fare la seconda dama del regno. Beh, una ragazza serviva una bella ragazza. Se era nobile meglio, non è nobile, pazienza, ma se una vuole fare la bella vita, non è bella vita, e quindi questi i middleman, che come i Middleton mettono nell'obiettivo una cosa che in realtà è il rinnovamento anche col proprio sangue della casa reale, a mia idea ci danno ancora l'idea di che cos'è un paese unito, poi combattuto, criticato, quello che volete, ma comunque un paese che ha ancora dei simboli, perché ha ancora dei valori che prevalgono sulle divisioni. Io temo che nei nostri personaggi le divisioni nazionali prevalgano ancora sul fatto che di cose che ci uniscono davvero ce ne sono ancora poche. La mia opinione è che questa seconda parte della trasmissione, la saggezza femminile, quella di Camilla Rasmussen, di Barbara Alberti e di Luisa Ciuni, abbia battuto la parte iniziale con Platinette. Questo io, da giudice insindacabilmente di parte, lo dichiaro. E per questo concludiamo ancora una volta rendendo omaggio, ma questo è un omaggio mio a cui non voglio accumulare nessuno, con la libertà che ci viene da loro.